Qualcuno aspettate? Nessuno, ho paura. Si ferma il viale. O c'è mio marito? Il principe? E il sale? Ma dopo seguito? Perduta mi vengo. Ti fanno cavallo. Là dentro! Non re! Salvarmi saprà! Thank you.

granchio, che bel qui pro quo, non è la di plo. Di dunque sarà? Silenzio. Se retto di stato, facete! No! Tenebre peste! Le maniche allungo, è un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Per chi mi sambiate, colei che cercate, non sono. Se tosto fuggir di nascosto, mi fate contento, sarete di me. Che sto dicendo a me? E poi? Son tornato, che deve si fare? Che fare? Vederla? Thank you. Cipriano e il buon consiglio.